Ballare non è proibito neanche in teatro. L'hai vista tu, luna mare chiaro, l'ho vista sì, e abbiamo pure chiacchierato. Il sexy shop correte, amori d'alto mare, e altre qui spille di cultura generale, sì. Sognavo anch'io, sogni dispersivi, o sei seppia tu, articoli sportivi. L'utente medio aveva un sogno più sociale, tapparsi in casa ad aspettare l'astronave. E l'astronave che arriva sembra amica, ma però non si ferma qui. Saluta un arcobaleno che sembra vero, poi fugge in direzione Palm Beach. E tutto il genere umano sembra vano, ma una logica ci sarà. Boreale, è un agibusto diventando addominale, è un sogno che ci impompa mani attacchi a spillo, è un beauty case imitazione coccodrillo, sì. Ti seguirò, che altro ti serve di sapere, verrò con te dove si parla di mestiere, lungo le spiagge primordiali a commentare. Ma guarda un po' come moderna l'astronave, e l'astronave che arriva sembra amica, ma però non si ferma qui. Saluta un arcobaleno che sembra vero, poi fugge in direzione Palm Beach. E tutto il genere umano, un palmo di naso, tutti a chiedersi dove va. Belli al flauto. Thank you. dentro nave già passata e tu dov'eri? Nei vernissaggi a festeggiare eroi leggeri. L'attualità si estrinseca in altre forme, tutti esauriti lì a sognar che non si dorme. Sì, l'astronave già passata e tu dormivi, meglio così magari non ti diverti via. Grazie.